24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Alfio Marchini, 50 anni, romano, 5 figli, un imprenditore prestato alla politica, tradizionalmente vicino alla sinistra e al Vaticano. Alle elezioni per il sindaco di Roma nel maggio del 2013 ha preso quasi il 10% dei voti con un movimento di volontari costruito in 3 mesi. Nel faccia a faccia Sky con gli altri candidati l'appello finale ha detto: siamo l'unico movimento libero che non ha partiti né padroni. E da uomini liberi noi combattiamo contro il consociativismo tra destra e sinistra, che per anni, ancora fino a poco tempo fa, di giorno fanno finta di litigare e di notte si spartiscono tutto. Quindi per lei Mafia Capitale non è una sorpresa. Lo dici tra l'altro in un'intervista 2 anni fa e in questi mesi stiamo assistendo veramente al valzer dell'ipocrisia. Tutto previsto. No, della serie io non c'ero, se c'ero dormivo, se sognavo, sognavo di non esserci. Lo trovo abbastanza imbarazzante. È anche i sanpietrini a Roma sapevano che troppo spesso corruzione, politica e pubblica amministrazione, non tutti ma una grandissima parte, andavano a braccetto. Ingegner Marchini, ma se lo sapevano tutti che di giorno si litigava e di notte si spartiva il bottino, com'è che andare avanti tutto tranquillo? Beh, io dico che in genere i sistemi crollano quando non servono più. Allora, finché c'erano delle risorse da spendere, i sistemi hanno sopravvissuto. Oggi che sono finiti i soldi, crollano i sistemi. Ma si può governare come ha fatto Marino, sostenuto da quelli che adesso chiama i capi bastone, facendo finta di nulla? Guardi, innanzitutto è chiaro ed è evidente che una città grande come Roma, complessa come Roma, è impossibile non venire in contatto con insospettabili che poi ci arrivano a essere altra cosa. Cosa diversa è essere contaminati. Ora io credo che, secondo me, in modo oggettivo questa sindacatura è stata profondamente contaminata, non a livello di scioglierlo per mafia, ma sicuramente c'è una profonda contaminazione. Quindi a questo punto Marino in qualche modo è responsabile? Politicamente sicuramente sì. Io ricordo che già con Mafia Capitale scoppiata 2 mesi fa, quando noi sollevammo e bloccammo Affittopoli e Svendopoli, egli mandò a rappresentarlo di fronte a milioni di telespettatori una persona che ahimè oggi è agli arresti. Evidentemente aveva avuto tutto il tempo di fare gli approfondimenti. Ora non credo che lui sia stato connivente, però sicuramente c'è un'oggettiva responsabilità politica. Senta, ma i 5 Stelle dicono che il buonismo di Marino è connivenza, invece lei lo pensa o no? Io non so se Marino è buono, direi piuttosto un gran furbone. In campagna elettorale lei ha annunciato l'esistenza di 600 milioni di un buco nel bilancio. Nessuno le ha dato retta. Adesso ho capito perché. No, direi di più. In questo anche i cittadini ormai devono fare un'autocritica, perché quando uno denuncia un buco di 600 milioni e gli altri ti promettono 500 euro ai giovani, 700 agli sfrattati e che avrebbero abolito le tasse sulle case, tu li voti, allora tu sei anche responsabile e ti meriti l'ottimo Marino. Si deve dimettere subito? Secondo me, io, come lei sa, 1 anno e mezzo che lo chiedo, non c'entra l'aspetto penale. Qui c'è un'oggettiva incapacità di gestire l'elettricità e le complessità di una città come Roma. Fine, punto. Questo è il giudizio. A Roma diamo un giudizio con il pollice, è verso già da 1 anno e mezzo. Senta, ma il commissario a questo punto sarebbe solo un pannicello caldo? Il commissario è il passaggio giusto, a mio avviso, per dare il tempo di raffreddare gli animi. Io credo che... le elezioni. Ma no, perché io credo che sia giusto anche che i cittadini non vadano alle elezioni sull'onda dell'emotività, ma abbiano questa volta sì la capacità di poter scegliere chi votare su base di programmi, progetti concreti e non su... Quindi commissario e poi voto. Assolutamente sì. Lei dice anche che oggi ci sono ancora 400 milioni fuori bilancio. Esattamente. Questo Roma come la Grecia sostanzialmente. No, peggio, perché almeno oggi in Grecia più o meno hanno messo dopo la troica sotto controllo i conti, sanno quanto, oggi no. Cioè quello che è folle è che ancora oggi nel comune di Roma qualsiasi dirigente può impegnare senza autorizzazione, senza copertura finanziaria il comune per qualsiasi importo. È una città fuori controllo. Completamente. Senta, ma adesso ha detto che se ne va... E non è colpa, scusi, voglio dirle, dentro alcuni c'è anche gente competente, in più la nuova assessore al bilancio è persona competente, ma qui c'è proprio un'oggettiva difficoltà di poter controllare la macchina burocratica amministrativa, che è il vero punto da riformare. Senta, lei ha detto che se ne va dal Consiglio, ha detto ieri dal Consiglio Comunale, ecco, non è un po' tardi per intercettare la rabbia della gente? Essendo solo 2 anni che sono stato eletto, forse lei mi sta consigliando che è meglio che non mi candidavo proprio. Ma non lo so, ma che cosa pensava di poter cambiare restando lì? Quello che l'abbiamo fatto. Se oggi, ad esempio, un immenso patrimonio immobiliare di Roma non è stato svenduto come era stato fatto, perché noi ci siamo barricati, abbiamo obbligato, ad esempio, a togliere lo sconto del 30% sugli inquilini che avevano affitti ridicoli, abbiamo svelato affittopoli per cui tante cose, compreso la ONU del sindaco, era affittata a prezzo agli amici degli amici. Penso che questo sia importante e continueremo a farlo. Stia attento, cioè, l'autosospensione non vuol dire disinteresse del Comune di Roma, vuol dire sancire in modo chiaro che non c'è agibilità politica oggi in Consiglio Comunale. Senta, Marchini, ma se si vota adesso stravincono i grillini? Guardi, io dico sempre, lei sa che sono uno sportivo, vince, perde dopo il fischio finale. Io ricordo quando 2 anni fa iniziai e decisi di candidarmi, mancavano 3 mesi alle elezioni, i grillini erano al 29,9 in crescita, 35-35% i due blocchi, poi è finito noi al 10, loro al 14 e la centrodestra al 20. Quindi dice no, lei, cambiato tutto. Ma io dico, però, secondo me, sì, ma guardi, cambia tutto. Gli italiani alla fine decidono nell'urna. Quanti sondaggi sono andati a buon fine negli ultimi anni? Quasi mai. Allora, stiamo ai cose concrete e parliamo non delle suggestioni, ma delle cose serie. Sì, però abbiamo visto i risultati di questi giorni, i grillini sono avanzati dappertutto. Ma io, guardi, lei sa e si ricorderà che io sono stato tra coloro che hanno sempre difeso i grillini quando non andavano di moda, sempre. Li ricordo di più, a Roma, dopo le elezioni, chi propose di affidare la commissione trasparenza ai grillini è stato il sottoscritto. Ma lei li ha visti in Consiglio Comunale? Sanno essere concreti? Diciamo che sanno essere molto presuntuosi, e su questa roba qui io li inviterei, essendo anche molto giovani, a essere un po' più umili, perché questa superiorità morale, bisogna ricordargli che il cimitero della storia è pieno di gente che se ne arrogava il diritto. Ma non sarebbe un'occasione per metterli alla prova? Ma io penso loro abbiano già avuto e abbiano moltissimo occasione per mettere alla prova. Oggi non sono più dei giovani ragazzi, governano molte città, grandi e piccole, basta andare a vedere lì che cosa fanno e come lo fanno. Senta, Renzi prima ha abbandonato Marino e voleva farlo fuori. Poi adesso lo difende, poi adesso dice che forse tra un anno si voterà. Insomma, confusione. No, realpolitik. Lei ha mai parlato di Roma con Renzi? No. Mai? No. Non ci credo, ma vado avanti. Senta, ma farebbe un accordo con Renzi per Roma o no? Mi piacerebbe vedere il Presidente del Consiglio un po' più innamorato della sua capitale. Devo dire che ha brillato per l'assenza e la non attenzione verso una città che non ci deve essere amata di più. Senta, Giuliano Ferrara dice che non esiste mafia capitale, ma solo un malaffare consociativo organizzato. E lei è d'accordo? Io credo che vada fatto due riflessioni. Primo, come mai tutta questa roba esce fuori oggi? In fondo non stiamo parlando di due signori qualsiasi. Uno è un signore che ha avuto una fedina penale molto importante, un altro è una persona che, diciamo, nella storia dei grandi crimini di questo paese ha avuto un ruolo fondamentale. Ora, mi sembrerebbe strano che non siano stati, come dire, attenzionati in tutti questi anni. Quindi, diciamo, la prima riflessione è questa, no? E la seconda riflessione che vado a fare è dire: se questo sistema mafioso lo era realmente, che cosa e qual è lo scenario che si sta preparando per il futuro, che è la preoccupazione, cioè, ma lei che mi sta vede a cuore. I tratti mafiosi della situazione? Un grande vecchio un giorno mi disse: la mafia è una roba seria, dallo spaccato mi sembra più una mafia la vaccinara piuttosto che una seria. Senta, Giuliano Marchini, parlando di cose concrete, i dipendenti diretti del Comune di Roma sono 25.000, quelli indiretti 37.000, le società partecipate 160. È lì il marcio, no? Le faccio un esempio. L'AMA, che è la società che gestisce la raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, ha 7.000 dipendenti. Ebbene, il 90% dei servizi che l'AMA fa li dà in subappalto. Ora, io vorrei capire, io pago 7.000 persone, che cosa fanno queste persone? Come la RAI? Questo lei lo dice, io mi astengo dal commentarlo. Va bene, non lo commenti. Senta, Carlo Verdone... No, dice... però diciamo, qui, al di là di un problema di fare tagli, è un problema di organizzare, certo, perché se io sono 7.000 persone e do dei servizi fuori, il tema non è che devo mandare via quelli, forse è il caso li faccio lavorare. Certo, e quindi quei 25.000 più 37.000, il problema è quello. È che devono essere messi in condizioni di fare bene il loro mestiere e lavorare come devono fare. Carlo Verdone dice che Roma è una città sbagliata, un biglietto da visita di un paese sbagliato. È un giudizio terribile, ma però è vero in qualche modo? No. No. Direi piuttosto che è una bellissima donna sedotta e abbandonata. Lei, ingegner Marchini, ha vissuto alcuni anni in Argentina, dove il cardinale Bergoglio era il primate dell'Argentina, per l'appunto. Se l'aspettava così rivoluzionario come assolutamente Papa? Sì. Perché? Perché è un uomo del popolo, profondamente innamorato del popolo e che ha dedicato la sua vita al popolo. Ma che esempio è per la politica in questo momento, Papa Francesco? Provo a darle una definizione in due parole: sobrietà e servizio. Lei ha sempre avuto la passione per i grandi vecchi, come suo nonno, Enrico Cuccia, Cossiga, Bernabé, Simon Peres, Carli, eccetera, molti altri. Perché? Perché credo che non ci sia speranza di futuro senza memoria, e su questo secondo me questa furia di rottamazione, di cancellare il passato, è un errore. Quindi in questo scenario di fatto di giovanilismi, appunto, di rottamazione, questo mondo, questi personaggi hanno questo ruolo di tenere legate le esperienze? Vede, ognuno di noi, ormai abbiamo capelli bianchi abbondanti per sapere che nella vita si fanno tante cose e molti si sbagliano. Io credo, e lo dico perché siamo ormai la quinta generazione, ai miei figli dico sempre: fate degli errori, evitate di fare i miei, io, quelli di mio padre, di mio nonno e così via. Fanne di nuovo, insomma. Bravissimo. E credo che l'unico modo, l'unica garanzia è avere qualcuno di esperienza, un grande vecchio che ci ricorda che poi alla fine la storia non ti inventi nulla, è già tutto scritto. Senta, Ingegner Marchini, adesso arriva il Giubileo. Con Roma in queste condizioni non è un'occasione buona per rifare tutto? Beh, innanzitutto è un giubileo diverso. Il 95 certo, era un giubileo dove c'erano 5 anni di avanti fino al 2000 per prepararlo. Questo è un giubileo, tra l'altro il Papa, che persona avveduta, ha detto che si può lucrare tutte quelle che sono i benefici del giubileo anche in altre chiese. Quindi, diciamo, è più una cosa spirituale che un grande evento per riorganizzare Roma. Ma chi può fare il commissario per il giubileo? Beh, io penso che mi sembra già un commissario de facto. Gabriele è stato già indicato come il punto di riferimento. Sembra giusto? Assolutamente sì. Lei non lo farebbe? No. Perché? Ma perché non è il caso. Lì serve qualcuno che abbia un profilo diverso, che abbia un profilo apolitico, e penso che Gabriele sia la persona giusta al posto giusto. Non ho capito se alla fine però lei si allerebbe con Renzi per rifare Roma oppure no? Io mi alleo, come le ho detto già altre volte, con tutti coloro i quali amano Roma. In questo momento, come le ho detto, Renzi, quindi Renzi non lo ama, non si ma no, beh, però uno se come si converte, se si innamora. Se si innamora, va bene. Senta, ma alla fine quello di Renzi oggi, secondo lei, è un governo, è il governo di un barbaro rivoluzionario, come è sembrato a lungo, o un Letta bis? Io credo che non sia forse nell'uno e nell'altro, credo che lui debba fare esperienza degli errori e credo che secondo me ha la possibilità di dare un impulso di tipo diverso. Ma per cambiare l'Italia oggi, quali sono i primi tavoli però da rovesciare? Mi faccio dire una cosa. Sì, dica. Io devo dire che in questi giorni Renzi mi sta diventando molto simpatico. Certo, ma lo confesso. Perché in Italia è tipico. Fino a due mesi fa, cioè un mese fa, tutti quanti. Renziani, adesso io l'avevo detto che era uno che non ci capiva niente. Sì, sì. Tu io, ecco, io per cui direi in questo, insomma, i miei capelli bianchi mi fanno dargli un consiglio, gli regalo un insegnamento di mio nonno che diceva: caro Renzi, direi oggi, se lo avessi qua, stai tranquillo. Perché non esiste cambiamento senza sconfitta, quindi coraggio, l'importante è che sia rigoroso. La traversata nel deserto rende più solidi. Certo. Senta, ma per cambiare l'Italia quali sono i primi tavoli che dovrebbe rovesciare adesso, se capisce gli errori? Beh, secondo me più che rovesciare deve iniziare a costruire. Ma lo farà dopo la sconfitta elettorale, secondo lei? Secondo me sì, ma poi deve anche abbandonare alcuni slogan, tipo in Perù quando dice basta l'economia relazionale. Sono quegli slogan che secondo me una persona che abbia la sua maturità deve lasciare il tempo che trova, perché se no gli possono dire... Anche perché poi capiterà anche a lui. Ma no, ma poi gli dicono perché tu c'è il giglio magico, cioè si abbassa il livello. Lui deve secondo me, volare alto, deve, come lo che può fare, dire: io ho in mente un'idea forte del mio paese, aggrego su questa idea le migliori risorse e poi Dio vede prove. Ma per esempio sull'immigrazione, parlando di cose concrete, sì, è chiaro che in Europa non contiamo nulla, l'abbiamo visto. È un'immigrazione biblica, viene derubricata a emergenza. Qualcuno dice: non paghiamo più la nostra quota all'Europa e investiamo quei soldi in Nord Africa per fermare lì l'esodo. È un'idea? Beh, adesso ha una sua complessità. Il concetto però lo prende al volo. Cioè, a questo punto è giunto il tempo che ci si metta al tavolo con la pistola fumante sul tavolo stesso e si dica: signori, non può essere il nostro paese visto solamente come confine nazionale, ma deve essere il confine dell'Europa. Allora, siccome purtroppo l'unica moneta che si capisce è quella economica, benissimo, noi evidentemente metteremo questa moneta moneta sul piatto di una trattativa che deve tutelare gli italiani. Noi non possiamo prenderci da soli il peso di un problema che è biblico e serio. E quindi minacciando sui soldi che diamo. Che è l'unica cosa che poi alla fine c'è una sensibilità. In Europa si capisce solo quello. Solamente quello. Ma lei avrebbe messo D'Alema in Europa al posto della Mogherini? Non conosco la Mogherini, ma assolutamente sì, perché D'Alema è persona che ha tutte le caratteristiche per fare molto bene. Ma cosa avrebbe fatto di diverso? Guardi, lei sa che... Ma secondo me ha una capacità, una conoscenza. Penso che D'Alema abbia pagato la sua posizione nei confronti del Medio Oriente. E quindi, essendo l'Italia storicamente un paese molto critico e molto delicato su quel quadrante, e lui ha sempre avuto posizioni che io non sempre ho condiviso, anche diciamo filo arabe, non perché non sia filo arabo, ma insomma perché poi ognuno ha i suoi punti di riferimento. Penso che lui abbia pagato quel posizionamento, ma sulla sua capacità indiscussa di dare all'Italia un peso forte. Ecco, se lei mi dice vede D'Alema su un tavolo che batte i pugni per difendere il nostro paese, dico sì, assolutamente sì. Ma alla fine Renzi e D'Alema, che sembrano così diversi, forse un po' si somigliano a loro. Io dico di sì. Ma in cosa? Io so che questo non lo farò. Io so che non fa contento che, nessuno dei due. No, entrambi, entrambi mi farò due grandi nemici. Però cosa? Sono entrambi umanamente meglio di ciò che fanno apparire. Entrambi non resistono alla battuta spesso autolesionista e sono entrambi coraggiosi, al limite dell'arroganza. Direi più intellettuale il primo e più muscolare il secondo. Però comunque entrambi sono sicuramente due pollici di razza, infatti non vanno d'accordo. Infatti, senta, ma queste... Ora mi odieranno entrambe. Questa sconfitta parziale di Renzi potrebbe aiutarlo a riflettere? Come le ho detto, non c'è cambiamento senza sconfitta, e come lei sa, ognuno di noi il giorno dopo una sconfitta o un errore è l'inizio di una rinascita. Senta, le faccio un'ultima domanda. Oggi arrivano i risultati degli ispettori. Lei che cosa si aspetta da questi risultati? Le uso una metafora calcistica: palla lunga e pedalare. Però che cosa ci sarà scritto? Melina? Io penso che non ci sia assolutamente scritto niente. No, ci sarà scritto quello che ho detto, che c'è stata un'oggettiva contaminazione, a mio avviso non però a un livello tale da obbligare lo scioglimento per me. Ma lei spererebbe che ci fosse scritto dell'altro? No, perché sarebbe scandaloso per il nostro paese un commissionante per mafia. Io dico che se Marina avesse un sussulto di dignità eviterebbe questo. Lei si immagini il giubileo, che mentre il Papa accoglie i pellegrini ci sarà la telenovela delle singole puntate di Mafia Capitale, perché è solo la punta di un iceberg e quello che c'è sotto è molto più grande di quello che è ancora apparso. Deve apparire molto. Ma non c'è dubbio, è evidente, cioè stiamo parlando ancora di cifre irrisorie, c'è tutta una parte che riguarda gli appalti, il bilancio comunale sono 6 miliardi di euro, quindi se è vero su un singolo settore sarà sicuramente vero su tutto. Quindi il grosso di Mafia Capitale deve ancora emergere. Sicuramente il grosso del malaffare ancora non è emerso. Senta, ma Roma allora in quest'ottica è riformabile? Assolutamente sì, altrimenti diciamo non stare qua, ecco, per questo. Ma no, io penso, guarda, Roma ha una caratteristica unica. Io, come lei sa, ho vissuto molto all'estero. In ogni città, anche la più bella, oggi penso che Londra sia quella più efficiente, sai quello che trovi. Roma è una città che ti sorprende sempre. Vai negli angoli dove meno ti aspetti e trovi eccellenze, cuore. Guardi adesso anche sugli immigrati. Io l'altro giorno ho visto una signora che fa le polpette che le porta gli immigrati. Cioè Roma ha una capacità, una ricchezza, un potenziale immenso. Il problema è che non è sfruttato, non è valorizzato, e questo è un grave problema. Grazie ingegner Marchini. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblico. X 24. Passatemene una. Sono le 9.33 e 24 secondi. C'ho un sacco di ritorno in cuffia, quindi sento malissimo. Mario e Pietrangelo, che titolo fareste per l'intervista di Alfio? Adesso non sento più niente, va benissimo. Mi verrebbe da fare una cosa in romanesco che fu usata da qualche altro, però... Se può fare. Il titolo che farei è questo: Roma ha un nemico, Matteo Renzi, virgolettato. Come un nemico del sud, perché ricordiamolo, la faccia di Renzi è quella di Marino, è quella di Crocetta, è quella di De Magistris. Ma da un po' che sta. Ci abbiamo una telefonata? No, va bene, allora, intanto canzone. Prima che la terza rivoluzione industriale provochi l'ultima grande esplosione nucleare, prepariamoci per l'esodo, il grande esodo. Sei tornato con una metropolitana pazzesca? Non dalla metropolitana, ma passando, Giovanni, da Ventimiglia. Quindi scendendo dal Piemonte, passando da Ventimiglia, e ho capito come le canzoni riescano ad arrivare prima dei notiziari, perché ci preparano all'esodo ancora prima che i giovani del futuro ne abbiano coscienza. Fu Franco Battiato, infatti, in anticipo sui tempi, a capire come le vie calde, le temperature già le preparano ai livelli più alti, quando vedremo arrivare da tutte le parti, così dice la canzone, dalle città, dalle campagne, dal sud e dal levante, l'esodo. Ed è un esodo che riguarda tutti noi, code tante lunghe, tanto grandi, così come aveva immaginato Franco Battiato, adesso attualità. Basta guardare le foto, basta osservare attraverso i notiziari le immagini. Non è più immigrazione, adesso è esodo. Esodo. Come dicevamo con Marchini, il problema è veramente quello di non derubricare, no? A emergenza un esodo. Andiamo con le bolle, Mario. Sì. Questa è Shaft. Mette un po' di suspense, nonostante il ritmo sia molto forte, senti. Sì. È bella, eh? Allora, che succede? Si attendono i dati della produzione industriale americana, comincia la riunione del board della Federal Reserve oggi e domani, non dovrebbe esserci aumento dei tassi, però un'indicazione più precisa probabilmente sì. Varoufakis, il ministro delle finanze della Grecia, ha detto che non presenterà una nuova proposta all'Eurogruppo. Queste cose sono tutte insieme in qualche maniera, cioè rappresentano le prospettive della crescita. Positiva, speriamo, ma anche negativa potrebbe essere, perché il Grexit comincia in realtà a preoccupare più di quanto si immagini. Improvvisamente, segnalo, dopo il boom dei mesi scorsi, le vendite complessive di automobili in Europa hanno avuto un rallentamento. Il dato è positivo, più 1,3%, però non è certamente in linea con il boom che aveva avuto nelle settimane scorse. Quindi il sirtacchi finanziario di Atene sgonfia alle quattro ruote. Segnalo che in apertura lo spread è a 162, che insomma sta crescendo. Ha degli impatti notevoli. La verità è anche che la Grecia dà l'impressione di aver deciso, punto. Ma cioè, io sono molto mi sembra d'accordo. Sembra una partita di poker, ma dove loro, se sei un bluff alla grandissima. Il no per loro ha un valore strategico più grande, sì, del sì in questo momento. È un gioco al massacro, sì, se vuoi, però è così. D'altronde loro non hanno soldi, non hanno PIL. Il 30 giugno devono pagare una rata di 1,6 miliardi. Io continuo a pensare che la Russia all'ultimo tuffo non sarà assente, però è una mia opinione fondata sul nulla. No, su nulla no, perché ci sono dei fatti concreti che stanno accadendo. Vediamo Salamino. Cosa succede. Un successo, quello che è successo, fosse pure un insuccesso. Ho letto il Corriere della Sera. Pensare, scrive il Corriere, che Renzi torni indietro dopo quello che è successo, e cioè dopo quello che lui stesso ha definito un insuccesso, significherebbe non conoscere bene di che pasta è fatta il Presidente del Consiglio. Insomma, ragioniamo. La sinistra ha totalizzato un insuccesso a Venezia. Perde le elezioni nella città dove i comunisti, o più o meno dallo Steinhoff cacciariano, governano da più di 20 anni. Allora, è un successo o è un insuccesso? Forse è un successo perché significa non conoscere la pasta di Renzi e capire che cosa è accaduto, e cioè che lì il cosiddetto spin doctor di Luigi Brugnano, cioè il nuovo sindaco di Venezia, è un renziano. Si chiama Mauro Ferrari ed è lo stesso che ha curato la vittoria elettorale di Giorgio Gori a Bergamo e per ben due volte l'elezione di Roberto Reggi, sindaco di Piacenza, a suo tempo oggi invece all'Agenzia del Demanio. Ieri Giorgio Gori, che è il nome spirituale di Matteo Renzi, ha chiamato a Venezia Mauro Ferrari, artefice della vittoria di Brugnano, quindi colui il quale ha sconfitto la sinistra, per dirgli: sei un demonio. Che successo dunque, l'insuccesso, povero Casson. Amici tra i nemici, troppi nemici tra gli amici, una sola morale. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego. Insomma, a Firenze, a Venezia ha vinto Renzi, mi pare che abbiamo capito che a Venezia ha vinto Renzi. Vabbè, Daniele Frongia, buongiorno, abbiamo il telefono, buongiorno. Pronto? Buongiorno, grazie a lei, presidente della commissione, della spending review del Comune di Roma, dico bene? Sì, dice benissimo. Ecco, mi dica. Allora, noi ringraziamo per l'ospitalità, per noi doverosa, doverosa. Per noi è molto importante, insomma, sottolineare il fatto che dal 2013, ma in realtà anche da prima, da quando eravamo nelle istituzioni, ci battiamo per il patrimonio immobiliare. Questo veramente, si parla molto di mafia capitale, giustamente dovremmo sempre parlare anche delle battaglie sul patrimonio immobiliare, cioè sì. Roma capitale, il comune, noi tutti abbiamo a disposizione decine di migliaia di appartamenti, parliamo di oltre 50.000 solo nostri, più altri 30-40.000 dell'ATER, ma noi non sappiamo in larga parte chi c'è dentro, a che titolo c'è. Molti sono vuoti, quindi da subito 2012-2013. Quindi voi da subito avete fatto le vostre considerazioni, diciamo. Sì, diciamo che banalmente qui la politica secondo me c'entra poco. Avendo scoperto dei ricchi, parlo di ricchi, sì, che stanno in case comunali al centro a 50-100 euro al mese, ovviamente. Vabbè, mi sembra che avete fatto una giusta battaglia. Sì, sì, e quindi insomma, ci fa piacere condividerla, perché credo che debba essere una battaglia di tutti, questo al di là appunto dello schieramento politico. D'accordo, grazie della precisazione, grazie. Sara, tocca a te con la tua quota rosa. Bianco, nero, africana, afroamericana, europea, nativa americana, non c'è problema, diceva Michael Jackson. Lui era un nero che è diventato bianco. Rachel Dolezal invece è una bianca che voleva essere nera. Si era così calata nella parte che era presidente di una delle più influenti organizzazioni nere, per l'appunto, degli USA. Avete capito bene, Rachel, che è bianca, così racconta il New York Times, a un certo punto della sua vita, dopo l'università, ha deciso di cambiare radici. Ha falsificato documenti e rapporti umani. Insomma, ha fatto tutto pur di appartenere ad un gruppo di potere. È l'ennesima prova che il bene, no, che la difesa degli altri, molto spesso non fa rima con bontà, ma con visibilità. Oh, sassolino nella scarpa. Canzoniere, mi fai canzoniere? Chi crederia che sotto umane forme e sotto pastorali spoglie fosse nascosto un dio, e non mica un dio selvaggio o della plebe degli dèi? 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Mario Giuseppe ci scrive: pragmaticamente parlando, i greci hanno molto meno da perdere del resto d'Europa in questa fase. Viva la Grecia, quindi. Cioè, un po' quello che dicevamo. Cioè, sì. La Grecia ha un margine di trattativa che deriva dalla sua condizione di miseria, diciamo. Sì, e poi c'è chi dice: così scelgono la povertà. Vabbè, io capisco. Ce l'hanno. Il problema è quello, ahimè. Cioè, la Grecia è una nazione molto povera in questo momento. Forse lo sarà di più. Può darsi, anzi, probabilmente al 99%. Potrebbe essere anche l'Europa che ci rimette di più della Grecia. Abbastanza, secondo me. Perché quando perché tu si hai fa creato. Finta che ci rimette solo la Grecia, ma no, sono sicuro che, no, ci rimette, che sia così. Ci rimette anche l'Europa. Perché dice, quando dice tu hai Draghi, creato, nel lungo periodo, se uscisse la Grecia dall'euro, i problemi sarebbero tanti. Sì, sono problemi politici, sono problemi anche di, come dire, sai, quando esce uno poi sono autorizzati, diciamo, a uscire tutti, con conseguenze imprevedibili, nessuno sa cosa siano, cosa può succedere. È un bel momentino nuovo. In cui io, se avessi investito in euro, probabilmente leverei tutto, però insomma, vabbè, tanto per conseguenze, no? Bolla. Allora, è una bolla un po' lunga, la cominciamo con Tim Mann degli America, un pezzo meraviglioso con un basso strepitoso che si sente qua. Sentite qua sotto, quello è un basso. Allora, il Club del Tortellino, voi ve lo ricordate, no? Era quella foto dei virgulti della sinistra europea in camicia bianca, era il settembre 2014, non so se qualcuno di voi se la ricordo ricorda. Benissimo. Tutti in camicia bianca, con sembrava i jeans. Sembrava il nuovo mondo. E tutti pensavano di cambiare l'Europa, avevano anche un programma in 10 punti. Mi sono preso la briga di vedere che fine ha fatto quella fotografia. Non cito le cronache dei giornali, per carità, di patria e professione. Diciamo, però insomma, non lo so, Hacking Post, tanto per dire, vicepresidente del PSE, hanno finito il congresso da poco, lui è stato riconfermato, il PSE ha litigato furiosamente sulla questione immigrazione. Pedro Sanchez, il leader del PSOE, lo spagnolo, insomma, gli ha segato le gambe della sedia Podemos, quindi niente da dire. Matteo Renzi, lo conosciamo, vogliamo ancora raccontare? No, andiamo avanti. Andiamo avanti, se vuoi, Pietrangelo, vuoi inserirti? No, andiamo avanti. Matteo Renzi, Manuel Valls, il premier francese, che molti dicono che stia facendo bene e così via, però io segnalo che ha la spesa pubblica al 57,5% del PIL, quindi farà la fine dell'Italia, molto presto, anche la Francia, e soprattutto quelli che venivano dipinti come i nostri alleati, in realtà hanno detto: a 20 miglia non passerà lo straniero, quindi sai che diciamo, quella foto non c'era così tanta armonia, mi pare. Finire, Diederik Samson, il leader dei laburisti olandesi, si è votato il 18 marzo scorso alle provinciali, i laburisti sono crollati. Intanto abbiamo Hermes da Parigi, addirittura. Buongiorno. Allora, per il canzoniere, La ninta di Torquato Tasso. Giusto! Bellissimo! Feltrinelli! Che fa a Parigi, Hermes, di bello? Lavoro all'Ocse. All'Ocse? Bravo! Ah, accidenti! E come va l'Italia vista da lì? Insomma. Così, sorvoliamo. Abbiamo pubblicato la Sarve italiana, insomma, c'è stato un certo entusiasmo nei confronti del governo Renzi. E poi adesso siamo l'anno prossimo, la prossima Sarve. Diciamo. Per un anno state tranquilli. Vabbè. Intanto lei ci ascolta, è un grande piacere per noi. Va bene, grazie. Sì, è un piacere anche per me. Grazie, buon lavoro. Salamino. La nemesi, c'è la damnatio e c'è la catarsi. La storia più significativa di questa campagna elettorale è quella di Pietrasanta in Versilia, dove Massimo Mallegni, dopo la galera, è diventato sindaco. accusato di estorsione, di peculato, abuso d'ufficio, arrestato insieme al padre e a metà del suo staff su richiesta del pubblico ministero Domenico Manzione, sulla base di accuse del comandante dei vigili del posto a suo tempo, Antonella Manzione, cioè sorella del pubblico ministero, nonché oggi Angelo Custode di Matteo Renzi. A Palazzo Chigi. A Palazzo Chigi. È stato arrestato Mallegni, azzoppato nella onorabilità, ha atteso la sentenza, ha attraversato l'onta e oggi, buttandosi alle spalle l'odio politico, con il 54,53% dei voti, alla guida di una lista civica sostenuta dal centrodestra, ha assestato un ceffone simbolico, per carità, sul volto arcigno del potere renzista. E tutto ciò giusto nel cuore della Toscana, giusto nel bel mezzo del centro del centro del centro del Giglio Magico. Luca Fazzo, un collega giornalista del giornale, ha provato a chiamare la potentissima Antonella Manzione, già accusatrice di Mallegni, ma lei ha risposto così. Piange il telefono, perché lei non verrà. Che storia, eh? Anche se grida. Che storia. È una storione. C'è ancora storia. Una bolla, Mario? Sì. È un classico, gli U2. Sì. Un classico per un mezzo che dovrebbe essere anch'egli un classico, cioè la televisione, ma che in realtà tutti i numeri danno in diciamo difficoltà, quantomeno il broadcasting tradizionale. E stavo guardando stamattina dei dati molto interessanti sull'ultimo sondaggio sul settore, sull'industria televisiva, in particolare sulle news, i cosiddetti news bulletin, e Giovanni, non ce n'è, è finita completamente. Nel 2013 la quota di ragazzi, di giovani che guardavano le notizie in TV era del 37%, due anni dopo, nel 2015, questa quota è scesa al 24%, è una quota destinata a scendere ancora, va a favore di mezzi come internet, però se ti può consolare, la radio avrà un grandissimo futuro. Bene, benissimo. Quindi video kill the radio star? No. No. Dopo il giornale radio, oggi per la storia raccontiamo la storia di un ufficiale, di un agente segreto, un ambasciatore, un guerrigliero. Tutto questo è Amedeo Ghie, un uomo diventato una leggenda. E a Mix 24 con Marina Milone la raccontiamo, questa avventura che inizia con la disfatta fascista in Africa orientale, una vera e propria storiona. Ma prima della pubblicità, la voglia e la pazzia di Ornella Vanoni. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me.